ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Veni la primavera, li mennuli sunciuri. Piano Nobile di Simonetta Agnellorbi, pubblicato da Feltrinelli, è il secondo volume della saga iniziata nel 2016 con Caffè Amaro. L'autrice di romanzi come La Mennulara e La Zia Marchesa ci porta stavolta a Palermo fra il 42 e il 55. Tutto gira intorno alla famiglia Sorci, guidata dal barone Enrico, che sta per morire. In attesa della sua morte, i figli e i nipoti continuano a pranzare come sempre tutti insieme al piano nobile del palazzo. Morto il barone Enrico, la famiglia sarà guidata dal figlio Cola, sposato con Margherita, ma da sempre innamorato di Laura, che è moglie del fratello Andrea, con la quale lui ha avuto un figlio. Piano Nobile è un romanzo dall'architettura curata, una costruzione sapiente di personaggi e trama. C'è la narrazione in prima persona, ci sono i punti di vista dei vari personaggi, che sono tanti, e c'è anche una narrazione epistolare. Il romanzo si apre nel 42 con il barone che, negli ultimi giorni della sua vita, rivede, diciamo così, i fantasmi delle persone del suo passato e fa un bilancio sulla sua esistenza. Ecco il ritratto di Enrico Sorci nelle parole di Simonetta Agnellorbi. Io credo che è uno scontento, credo che è un uomo triste perché era stato allevato come figlio secondogenito, avrebbe potuto lavorare, avrebbe potuto sposare chi voleva, sarebbe stato libero. Poi il fratello maggiore, che era stato fidanzato a una ragazza ricca e dunque da non perdere, muore. Lui è costretto a fidanzarsi con la fidanzata del fratello, che muore. E allora è costretto a sposare la cugina della fidanzata del fratello e si spera che erediti le proprietà della cugina, ma non le eredita. Per cui, oltretutto, ha una moglie che non gli piace e che non ha portato quello che ci si aspettava. Perché lui si aspettava di avere la miniera, le terre, eccetera, e invece sostanzialmente non ha avuto niente dalla dote di sua moglie. Poco e niente. È una moglie che non gli piaceva, però nella morte ho voluto che lui fosse gentile con questa donna che, dopo tutto, ha avuto tanti figli, è stata una moglie fedele, silenziosa, obbediente, un po' stupida, ha accettato le amanti di lui in casa e fuori casa, e ne parla e ricorda una cosa che è terribile per me e che ho imparato da un lettore: il modo in cui si uccidevano le neonate non volute. Il panno freddo, io sono col rimasta panno freddo. Sconvolta. Io sono rimasta sconvolta. Ma era una tradizione effettivamente così diffusa nella Sicilia dell'Ottocento? Se guardi nei ringraziamenti, ripeto quello che mi ha detto questo signore: i ricchi mandavano le figlie, come sappiamo, nei monasteri. I poveri, la borghesia, quando c'era una nascita in una famiglia che non già con figli, la levatrice diceva: «Se una femmineggia, che facemmo?» Come frase è terribile: «Se è una femminuccia, non femmina, che ne facciamo?» E se dicono il panno umido, significa che la bambina viene avvolta in questo panno umido che le porta freddo, è una morte quasi indolore. E poi a volte la madre la vuole tra le braccia, come fece la moglie, e come patto di fidanzamento le disse: almeno 3 femmineggi me la va a dare. Voleva 3 figlie almeno. Che almeno ebbe. Me le devi lasciare, sì. Quelle, almeno 3 sì. Non le devi, sì, far morire, non devi ammazzarle. E decisi di scriverlo perché è una cosa orribile, perché dobbiamo saperla, perché dobbiamo capire il dolore di queste madri, perché dobbiamo capire anche il valore delle femmine di oggi, perché io sono stata una femminista, ho fatto tutte le marce, eccetera. Non potevo non mostrare al mondo questa vergogna. Ecco, in questo romanzo dicevamo ci sono veramente tanti personaggi, sia maschili che femminili. Alla morte del barone, naturalmente, si apre anche la questione dell'eredità. Quello era un periodo in cui le donne, le figlie femmine, per esempio, non avevano diritto all'eredità. E fra i fratelli maschi si crea anche una certa tensione, perché c'è Filippo, che è quello più attaccato al denaro, eccetera. Ma c'è invece Cola, che sembra essere quello con lo sguardo forse più lucido e anche più moderno sulla realtà. Mi è piaciuto molto il personaggio di Cola, anche per questa sua relazione È extraconiugale. l'adultero più È amato l'adultero da più me nella mia amato. vita di scrittrice. È vero, perché lo diciamo, lui ama sostanzialmente sua cognata, la moglie di uno dei suoi fratelli, Laura, e fra loro c'è una storia d'amore veramente destinata quasi a non terminare mai, potremmo definire Sì, così. e con una moglie terribile, cattiva, difficile. Cola è un personaggio che a me piace molto perché non è vero che gli uomini fanno sempre quello che vogliono, cioè nel contesto siciliano l'uomo comanda, la moglie no, invece a Cola dà una moglie comannera che gli ha sempre dato ordini e continua la sua vicinanza al fratello cornuto da lui, che è un malato mentale, un È ragazzo una con persona che ha un problemi da sacco di quando i disagi. problemi. E fanno sempre una passeggiata insieme dopo pranzo, dovunque siano. Il modo è per calmare il fratello e per ricreare un rapporto affettivo tra questi due uomini, uno che ha una moglie che gli ha fatto le corna e che lui non ama, e l'altro che adora la cognata che è diventata la sua amante. Anche perché diciamo che Andrea appunto ha dei problemi mentali ed esercita anche una certa violenza psicologica e fisica nei confronti della moglie Laura, ecco. Laura invece insieme al cognato Cola avrà questo figlio Carlino, tutti sanno praticamente che figlio suo, non c'è nessun mistero da questo punto Sì, di vista. ma c'è tanto silenzio. Ecco, no, ecco, non se lo dicono, lo sanno tutti ma non fiatano mai, è un atteggiamento tipico immagino della Sicilia Io dell'epoca. penso che sia tipico di tutta l'Italia dell'epoca. O fai un gesto eclatante, voci, tragedie, bisticci, voglio denari, eccetera. O stai zitto e lo accetti. E credo che avvenisse molto di frequente. Hai detto la parola gesto eclatante. Naturalmente non faccio spoiler, però ci sarà secondo me un gesto eclatante da parte di Laura nei confronti del figlio Carlino a un certo punto di questo romanzo, perché Carlino è omosessuale ed essere omosessuale negli anni a cavallo fra gli anni 40 e gli anni 50 non era Terribile. certamente una cosa facile. Mi è piaciuta molto la storia di Carlino perché a un certo punto tu fai vedere che vabbè, gli americani nel frattempo non sono sbarcati in Sicilia, la famiglia Sorci concede, diciamo, il piano nobile del palazzo per creare un circolo degli americani e c'è un militare americano che adocchia Carlino e decide di portarlo con lui negli Stati Uniti. Gli promette un futuro di studi, lui vorrebbe Di studiare, adottarlo. di adottarlo anche. E invece cosa succede a Carlino? Viene abusato da questo colonnello, Carlino è scioccato e Carlino a un certo punto scappa. Scappa, fa la fame, povero, va a New York, riesce a diventare non ricco ma ad avere dei denari, la sua dignità e poi ritorna a casa, ma torna a casa da fallito perché il padre non lo vuole, il fratello non lo vuole, il colonnello è ancora vivo e Carlino ha un amore con un altro giovane omosessuale e la madre è presente, è come se desse il suo assenso quando vanno all'opera e lei ha un vestito colorato, un po' da puttana, lei che è una gran signora. Lei non ha paura a mostrarsi e a Non mostrare ha suo paura di figlio. mostrarsi al mondo come madre di lui, mentre invece non avrebbe mai osato mostrarsi al mondo come l'amante del padre di lui. Io non piango perché non sono una che piange, però mi sono commossa io personalmente quando scrivevo questo, perché l'idea di questa donna in un palco con questi due ragazzi belli a destra e a sinistra, tutti col ventaglio che dicono tale, tale, chissà puttana, deve essere terribile. Ecco, tu spesso nei romanzi, ma anche nei saggi che hai scritto, grazie naturalmente alla tua professione di avvocato, hai difeso tante donne nella tua vita, hai spesso parlato appunto delle donne abusate psicologicamente e fisicamente. In questo caso invece ho trovato molto originale l'idea di un ragazzo omosessuale sul quale si è esercitato un potere soprattutto di coercizione psicologica, perché quest'uomo non lo faceva uscire, non gli faceva incontrare nessuno, insomma, quindi questa è una cosa che capita agli uomini e alle donne. Allora, tutto quello che avviene tra coppie avviene senza nessun riferimento al sesso dell'una e dell'altro. Nei grandi amori e nei grandi odi e nelle cattiverie della coppia si perde quasi il proprio genere e ci sono due creature e l'unica cosa che fa funzionare il tutto, nel bene o nel male, è il potere. Infatti, a proposito del potere, avevo segnato una frase di questo romanzo. È sempre il barone Enrico che sta riflettendo e dice: se l'autorevolezza si costruisce sul potere, il potere si costruisce sull'esibizione di forza. Quindi, insomma, quello era un mondo in cui bisognava esibire e sicuramente un uomo di un certo tipo doveva esibire anche la forza. Forza in tutti gli aspetti, la forza di dare un calcio al tuo cane, questo modo di trattare i più deboli per gli altri è un esempio di forza che è un'ammirazione. Ecco, il famoso calcio che Enrico dà a suo figlio, diciamo illegittimo, nel senso che lui non l'ha riconosciuto, l'ha avuto con una cameriera, è tale Peppe Vallo, che ha insomma un ruolo Orribile quella abbastanza scena. terribile, perché lui è piccolo, sta cercando di Stato difendere sgradevole da la sua scrivere, sorellina e lui terribile. gli dà un calcio a questo bambino, insomma ancora piccolo. Peppe Vallo vivrà tutta la sua vita guardando, come dire, quasi dal buco della serratura questa famiglia nella quale lui non riesce ad entrare. E nel momento in cui sta per morire il barone, lui guarda questa famiglia dal palazzo di fronte e lì si sente veramente il senso dell'esclusione. D'altronde non poteva entrare nella chiesa perché sarebbe stato visto da tutti e si sarebbero chiesti perché. Ed era un uomo importante. Non aveva scelta. Vedere il funerale di suo padre lontano e dire: padre, perché mi hai fatto nascere? Io pensavo, scrivendo, non l'ho messo perché poi pare colto, e tutta questa cultura non l'ho e poi non l'ho fatto. Ma io ricordo nell'Iliade Achille, quando è disperato perché è morto Patroclo, va al mare e dice a sua madre: Mater, timetechis, che significa madre, perché m'hai generato? Attraverso invece il personaggio di Rico, che è figlio di Cola e Margherita, ma tanto alla fine c'è sempre l'albero genealogico, non ci si confonde, Fondamentale. il lettore capisce anche l'assurdità e la crudeltà della guerra, perché lui è andato a fare il militare, durante un bombardamento a Messina, insomma, viene ferito in modo grave e non potrà fare la carriera che pensava di desiderare, ecco. E hai incarnato un po' in lui tutti i sentimenti, come dire, anche i giudizi nei confronti dell'inutilità della guerra. Sì, perché è un personaggio che a me piace, ma non si è comportato bene e si comporterà molto male nel terzo libro. Quindi ci stai facendo un'anticipazione? Sì, nel terzo libro, perciò diciamo non potevo essere molto gentile. È un personaggio un po' tragico, una madre cattiva, un padre poco come questo grande affetto per il fratello che non può dichiarare. Viene spinto a sposare anche se è innamorato. E poi il mondo cambia e lui non poteva fare il militare, lui voleva lavorare e allora diventa peggio di uno di estrema destra perché non può fare altro che quello. E io che sogno bella, mi voglio E questa era Simonetta Agnellorbi, ora in libreria con Piano Nobile, pubblicato da Feltrinelli. Una breve pausa, poi torneremo ancora a parlare di libri. Il cacciatore di libri. Is there a time to keep it? Inizia come una storia di boschi e poi diventa anche qualcos'altro, però senza dimenticare di essere una storia di boschi. Inizia come una storia di boschi in cui la protagonista fa lunghe passeggiate con il papà, che detesta il concetto di confine. Poi diventa una storia dei boschi intorno a Sarajevo, dove nell'84 ci sono le Olimpiadi e dove purtroppo negli anni 90 si nascondono i cecchini che sparano ai civili della città assediata. Tutto questo è, molto in breve, Il bosco del confine, romanzo di Federica Manzon pubblicato da Aboca. Federica, in questo romanzo appunto ci sono vari elementi, tutti collegati con l'idea del bosco. Si inizia nel 1979, quando la protagonista fa queste lunghe passeggiate con il papà nei boschi al confine fra Italia e quella che all'epoca era la Jugoslavia. Il padre della protagonista sottolinea che nel bosco non esistono confini. Eppure, diciamo, lei ha qualche dubbio su questo, perché si rende conto che effettivamente anche il bosco può essere un luogo di confine. Come il padre riesce poi a farle capire questo concetto della non esistenza di confine? Allora, inizia prima di tutto col fatto che nel bosco ci possono essere confini molto segnati, come è stato per tanti anni il confine dei boschi vicino a Trieste, c'era una dogana, c'era della polizia a controllarlo, eppure era un confine che se ci si spostava, si andava in qualche zona del bosco più remota e si riusciva addirittura a passare senza controlli, sempre temendo di trovarsi soldati dall'altra parte. Quindi un tipo di confine nel bosco che, pur essendo molto ingombrante, perché era il confine tra il blocco occidentale e il blocco orientale, aveva dei significati di geopolitica globale, era in qualche modo sotterraneamente valicabile. E come dice il padre della protagonista, in fondo hai mai visto una betulla spostare i rami per non sconfinare nel terreno nemico? E d'altra parte però il bosco, e questo io l'ho visto soprattutto a Sarajevo, nella Sarajevo recente, è anche il luogo in cui passano dei confini invisibili che, proprio perché invisibili, diventano invalicabili. Nel bosco alle porte di Sarajevo passa la linea del confine tra la Sarajevo serba e la Sarajevo musulmana, bosniaca, ed è diventato un confine che i sarajeviti fanno fatica a valicare, pur a piedi, come in tutti i secoli sono stati attraversati i boschi. Questo confine, che non si vede ma c'è, è una presenza incombente, diventa in qualche modo difficile da accettare e da superare. Questo è un romanzo che gira molto intorno al concetto di confine, ma anche sul concetto di noi al di qua e loro al di là, che era molto diffuso naturalmente negli anni 70-80, quando inizia praticamente la tua narrazione. È un romanzo che parla anche di lingue, perché tu a un certo punto scrivi: avevamo il dialetto di città che parlavamo tutti, l'italiano riservato alla nonna materna, e poi c'era la lingua di mio padre che si mescolava a seconda dei contesti e che abbiamo sempre capito a sprazzi, senza troppa distinzione fra le parole slave e quelle dell'impero e le sue personali storpiature. Ecco, nascere e crescere in un luogo di confine è sicuramente una fonte di arricchimento, però tu a un certo punto scrivi che la protagonista ha dovuto fare anche delle acrobazie di integrazione. In che senso? Nel senso che questo Trieste lo mostra in piccolissimo, però se ci pensiamo, lo guardiamo in modo più preoccupante in tutta Europa, che molto spesso i luoghi di confine sono quelli dove convivono identità, culture diverse, dove positivamente guardiamo a un'integrazione, a un mescolamento, all'abitudine a convivere di persone che hanno modi di stare al mondo completamente diversi, lingue diverse. E se questo da un certo punto di vista ci apre a un'educazione all'alterità, alla convivenza con la diversità, dall'altro lato è vero, questo i luoghi di confine ce lo mostrano benissimo, che molto spesso questo effettivo vivere insieme porta con sé dei conflitti che, se vengono negati, appiattiti, non guardati, possono o esplodere in maniera drammatica, come è stato poi nei Balcani, o comunque portare un movimento opposto di affermazione della propria identità, di distinzione e di rafforzamento di un'identità tramite esclusione, tramite una differenza che non accoglie, ma anzi alza un muro come stiamo vedendo adesso non a caso in tanti paesi dell'Est Europa. Poi ci sono, ecco, altri momenti della narrazione che spostano, diciamo, il focus. Siamo nel 1984 a Sarajevo, la protagonista va con il papà e si stanno preparando praticamente le Olimpiadi. E lì la voce narrante incontra un suo coetaneo, Luca. Attraverso gli occhi e le parole di Luca, lei apprende un senso di appartenenza alla città di Sarajevo che non aveva mai vissuto prima. Anche Luca non è originario di Sarajevo, ma si sente parte profondamente di quella città ed è la stessa cosa che succede alla protagonista. In che modo ci si può sentire così legati ad una città che è stata estranea fino a qualche tempo prima? Mi fa veramente piacere che tu abbia posto l'accento su questa cosa perché per me è il cuore del libro, perché Luca, il personaggio che incontra la protagonista, in qualche modo è la città di Sarajevo. E io volevo raccontare proprio questo sentimento per cui a volte noi ci sentiamo a casa, ci sentiamo con il luogo che ci parla, anche se non abbiamo nessun diritto del sangue che ci accomuna. E forse il riconoscimento di un'appartenenza, di qualcosa che ci lega, è qualcosa di più sottile, che ha a che fare anche con la fisionomia e i visi della gente, con i modi più spicci o meno spicci di rapportarsi. Può capitare che noi sentiamo di essere vicini ed accomunarci a qualcosa per cui non possiamo vantare dei diritti del sangue o della genealogia. E questo in un momento in cui invece il nostro paese per primi non definisce i diritti di cittadinanza anche rispetto a un diritto di genealogia, di i tuoi genitori dove sono nate, cosa appartengono, secondo me invece è un punto in cui interrogarsi, perché credo sia una cosa che è capitata a tutti noi di sentire una vicinanza, un riconoscimento per un posto, un luogo, un paese in cui non siamo nati. Il concetto di appartenenza alla città, in particolar modo a Sarajevo, è un concetto che torna nel romanzo, torna quando vediamo la Sarajevo assediata nel 93, torna anche quando nel 2015 la protagonista appunto torna a Sarajevo. A un certo punto uno dei personaggi dice, a proposito del fatto che non ha abbandonato Sarajevo neanche durante l'assedio, dice: un sentimento di appartenenza e riconoscimento ci tiene agganciati alla città e se ce ne andiamo massimo, intuiamo che una parte di noi andrebbe a picco, per questo resistiamo. Sono tante le persone che hanno scelto di rimanere nella Sarajevo assediata, nonostante tutto e magari nonostante avessero la possibilità di andare via. Sì, questa è stata proprio una delle cose più forti, più drammatiche per me dell'assedio di Sarajevo, che era un assedio verso due simboli. Da un lato una città che era veramente una città cosmopolita, una città in cui si stava insieme solo in una forma di arricchimento e dove certe questioni non erano nemmeno tematizzate. Ed è stata una guerra invece tra persone che arrivavano da altri luoghi, dalla montagna, che avevano un'idea di vita, di valori, ritorno a una serie di tradizioni vissute in modo totalitario e non in modo di apertura, di democrazia, di progresso. Ed è stata veramente una battaglia tra il simbolo di ciò che rappresentava Sarajevo, che è stata anche la sua disgrazia, perché fino all'ultimo nessuno dei sarajeviti ha creduto che la guerra fosse possibile, proprio per quello che la città rappresentava. Fino all'ultimo, quando già le mitragliatrici erano sulle colline, fino a quando c'è stato lo sparo dei primi ragazzi caduti sul ponte di Sarajevo, non ci si credeva, e forse la colpa più grande di Sarajevo è stata quella, il non crederci, non pensare che questo vivere insieme fosse possibile distruggerlo. Ed è stata proprio una grande differenza tra l'identità così forte legata alla città che chi era nato lì, non a caso uno dei personaggi del mio libro, l'amico di Luca, rimane a Sarajevo, combatte per Sarajevo pur essendo di una famiglia serba, ed non erano pochi quelli che erano chiamati serbi leali che combattevano contro altri serbi proprio per quello che la città di Sarajevo rappresentava. Ecco, tu sei nata a Pordenone, hai scelto un po' Trieste, lo dici spesso come città d'elezione. Che legame hai con Sarajevo? Che cosa ti ha spinto a scrivere questo romanzo e ad indagare anche il fascino d'attrazione di questa città? Ma Sarajevo per me è in qualche modo una città specchio di Trieste, anche se in forma diversa. Trieste è una città di confine, dici bene, una città che per me è una città d'appartenenza anche se non ci sono nata, E però molte cose che ho trovato in Trieste le ho ritrovate a Sarajevo, un certo modo spiccio eppure solare, un'ironia che attraversa le strade, che le ha attraversate anche nei momenti più drammatici, un sentirsi a casa e riuscire facilmente a dialogare con le persone anche se parli lingue diverse, anche se non hai una matrice comune. E a spingermi a scriverlo è stato l'ultima volta che io sono tornata a Sarajevo qualche anno fa. A colpirmi è stato proprio questo cambiamento della città, perché tornandoci subito dopo la guerra era in qualche modo normale, lo mettevi in conto di sentire un certo senso di oppressione. I palazzi erano ancora tutti bombardati, vedevi i segni delle granate sui marciapiedi, sui muri dei palazzi. Non potevi andare nei boschi, nelle montagne, perché laddove non c'erano i cimiteri c'erano le mine. E questo però lo mettevi in conto perché era accaduto subito dopo la guerra. Invece tornarci, io ci sono tornata qualche anno fa, 2 anni fa, a tanti anni di distanza dalla guerra, che è finita nel 95, ritrovare un bosco, dei luoghi in cui ci si può andare, perché ora in gran parte sono stati sminati, però che non vengono frequentati da sarajeviti per quello che rappresentano. Mi ha turbato perché è proprio una mutazione di una città che era la città cosmopolita, adesso è diventata la città in cui devi dichiarare a che etnia appartieni. E questo fa resistenza al modo di essere dei sarajeviti e quindi li problematizza e quindi per uno scrittore è un terreno interessante, credo. Grazie a Federica Manzon, ora in libreria con Il Bosco del Confine, pubblicato da Abuca. Grazie Federica. Grazie a tutti. E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che se volete potete riascoltare queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook, alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino radio24, su Instagram come Cacciatore di Libri. Una buona lettura da Alessandra Tedesco. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.